Focus Economia di Sebastiano Barisoni. Diciassette otto minuti, inizia un'altra puntata di Focus Economia. Buona Epifania a tutti quelli che sono in ascolto, che stanno rientrando, che sono già al lavoro, e praticamente c'è quasi un passaggio di testimone con Musumeci, quindi con nessun luogo lontano, perché chiaramente oggi la puntata sarà molto dedicata agli sviluppi, alle conseguenze di carattere anche economico della crisi iraniana-irachena, medio orientale sarebbe sbagliato. Come alcuni di voi già sanno, ci sono dati tutti in rialzo sulle materie prime, in particolare l'oro, che è arrivato ai massimi dal 2013, è salito anche oggi del 2,3% a 1588 dollari l'once. La cosa importante, appunto, è che è il livello più alto da 6-7 anni a questo punto, a questa parte, e anche il petrolio prosegue la sua corsa. Il Brent va sopra i 70 dollari al barile e il WTI a 64,3. I 70 dollari al barile sono una soglia anche psicologica per il petrolio, mi riferisco alla quotazione Brent, mentre quella WTI è a 64,3. Tra l'altro, poi invece New York ha leggermente ritracciato. Cercheremo di capire, da un lato, le implicazioni in primo luogo sulle materie prime, ma anche sui mercati internazionali. E poi c'è un aspetto che riguarda anche il mondo delle compagnie aeree, perché da un lato l'aumento del petrolio poi pesa sui bilanci delle compagnie aeree, ma dall'altro la rotta che non sarà più percorribile, almeno per un po', è la rotta sopra l'Iran, modifica anche i tragitti delle compagnie aeree stesse. È un elemento meno conosciuto questo, e sicuramente non prioritario rispetto alle minacce e controminacce che sono arrivate. Il fronte libico vede anche, da questo punto di vista, la presa di Sirte, ma questo è un fronte che non va confuso chiaramente con quello iraniano. Ma la situazione internazionale in questo momento nell'area, diciamo così, mediterranea, medio orientale, è quanto mai complicata. Faccio notare che altre materie prime, penso al palladio, hanno superato i 2000 dollari l'oncia. 2020 è un record assoluto, e quindi c'è una tensione su tutti quelli che sono materie prime di carattere fondamentale. Tra l'altro daremo anche aggiornamenti su quello che riguarda le varie dichiarazioni di oggi, posizione americana, posizione iraniana e la posizione, diciamo, europea, molto defilata, devo dire. Oggi sia Merkel che Macron e anche Johnson hanno chiesto, quindi leader di Germania, Francia e Gran Bretagna, hanno chiesto all'Iran di rispettare l'accordo. C'è una dichiarazione anche del nostro ministro degli esteri Luigi Di Maio, che, parlando della situazione in Iran e in Libia, ha detto: c'è chi ancora crede che la strada sia la violenza e ferma al passato, non ha ancora compreso le lezioni della storia, e quel che è peggio, sta esponendo tutti gli italiani a un pericolo di ritorsione. Non capisco però se questo si riferisca agli Stati Uniti, visto che, diciamo, la miccia è stata innescata dall'uccisione di Soleimani, o alla posizione in Libia tra Sarraj e Haftar, anche perché non chiarisce se Iran o Libia. Ora, dice Di Maio, non è più il tempo di rischiare morte, terrorismo, ondate migratorie insostenibili, ora è il momento di scommettere sul dialogo, sulla diplomazia e sulle soluzioni politiche. Vabbè, questo è un auspicio, poi la realtà dei fatti mi sembra leggermente diversa. Arriveremo a parlare, spero, anche nei prossimi giorni di Libia. In questo momento però è prioritario l'Iran. E invece, per quello che riguarda altri temi che toccheremo, ce n'è uno in particolare. Domani aprono, infatti, il 7 gennaio, e chiuderanno il 31, le iscrizioni scolastiche online. Sapete che la scuola, la formazione scolastica è un tema che ci sta molto a cuore, perché è un tema anche di carattere economico, sulla capacità di un paese di formare giovani, di non avere mismatching, quindi la differenza tra le domande che arrivano di lavoro e l'offerta che c'è di lavoro. Allora, noi come Radio 24 abbiamo partecipato a un sondaggio in collaborazione con scuola.net, è presente sul sito del Sole 24 Ore, sul quotidiano Sole 24 Ore e anche chiaramente sul sito di Radio 24. Tra l'altro il 52% dei tredicenni ha paura di non riuscire a trovare un lavoro e il 63% mette seriamente in conto la possibilità di studiare o lavorare all'estero dopo il diploma a 13 anni, cioè sono i ragazzini che adesso devono scegliere l'indirizzo per la scuola superiore. Tra l'altro sul sito di Radio 24 si può ascoltare anche la puntata speciale di Verso il futuro e oltre a cura di Maria Piera Ceci, tutta dedicata alla scelta delle scuole superiori, e potete scaricare sul sito del Sole 24 Ore gratuitamente l'ebook con la guida 2020 alle scuole superiori. Ne parleremo nella seconda ora del programma, anche per, insomma, non dico alleggerire, ma diversificare rispetto al tema principale, che è un 2020 che si è aperto all'insegna dell'assoluta instabilità di carattere geopolitico per quello che riguarda Iraq ed Iran. 349-238-6666 per SMS e WhatsApp, la pagina di Focus Economia sul sito di Radio 24, la diretta su Facebook. Diamo subito l'aggiornamento sui mercati finanziari, che come immaginabile oggi sono tutti negativi, non in maniera pesantissima, perde mezzo punto percentuale Milano, e mezzo punto lo perde anche Parigi, mezzo punto lo perde anche Francoforte, Londra meno 0,60, lì siamo, Dow Jones meno 0,20 percento. Per quello che riguarda l'euro sul dollaro siamo a 1,11, quindi poco mosso. Tra i titoli segnalo che guadagnano Leonardo più 2,90, Eni più 1,70%, ma anche Tenaris più 0,60, immagino sulla scia dell'aumento del prezzo del petrolio. Mentre tra chi cede, Nexi meno 3,40, ST Microelectronics meno 2,30 come Banco BPM, 2% lo perde Unicredit e anche Biper Banca, Fiat Chrysler meno 1,50, Banca Generali meno 1,40, l'1,30 il calo di Diasorin, l'1,20 quello di Recordati e di Pirelli. Di nuovo 349-238-6666 per SMS e WhatsApp. Rapidamente le altre notizie in breve. Diciamo che se ci fosse bisogno di ulteriore confusione nello scenario geopolitico, ci ha messo ci ha pensato oggi anche Venezuela, perché il presidente venezuelano Nicolás Maduro ha riconosciuto come nuovo presidente dell'Assemblea Nazionale Luis Parra, che si è autoproclamato nella carica come successore del leader dell'opposizione Juan Guaidó. Guaidó nel frattempo è stato eletto da un gruppo di 100 membri effettivi e supplenti come presidente dell'assemblea, quindi da quello che capisco io ci sono due presidenti che non si riconoscono a vicenda anche nell'assemblea nazionale venezuelana. E il governo brasiliano ha respinto l'elezione di un deputato favorevole al governo di Nicolás Maduro e quindi ha respinto l'elezione di Luis Parra. Veniamo all'Italia. Dunque, mentre apre stabile, lo spread resta abbastanza intorno ai 160 punti tra noi e tra il rendimento di un nostro BTP a 10 anni e il rendimento del Bund tedesco equivalente, è all'1,32% il rendimento del BTP a 10 anni, quindi sul livello di venerdì. C'è l'andamento dell'indice PMI, che è il Purchasing Managers Index. Sostanzialmente sono indicazioni del responsabile acquisto delle società ed è un indicatore anticipatore. È sceso a dicembre a 49,3 punti sotto le aspettative degli analisti. Ora, per i servizi invece, questo nel settore manifattura, per i servizi c'è un'espansione a 51,1 da 50 punti. Per la manifattura invece c'è un calo a 46 punti. Che cosa è importante, lo ricordiamo sempre, i 50 punti sono lo spartiacque tra un'espansione economica e invece un rallentamento, frenata o addirittura recessione economica. Ultimo aggiornamento riguarda le dichiarazioni, le hanno già riportate i nostri GR24, ma comunque il presidente del Consiglio Giuseppe Conte in un'intervista oggi ha detto che Su Autostrade per Italia, giunti a questo stadio di analisi, è evidente che qualcuno ha commesso negligenze gravi e imperdonabili. Stiamo per chiudere il dossier e ci confronteremo nella maggioranza perché siano coinvolti tutti gli attori. Poi parleremo anche del mese che, diciamo, non è che si sia inaugurato, siamo al 6 gennaio, però entra in vivo con domani, c'è stato uno slittamento del vertice di maggioranza, un mese importantissimo anche per il governo italiano sul fronte interno, chiaro l'appuntamento in Emilia Romagna con le elezioni e in Calabria il 26, ma non solo, c'è appunto la vicenda Atlanti Autostrade, c'è il dossier Ilva aperto, il dossier all'Italia aperto, altri dossier di crisi aziendali. Qui sarà un mese, diciamo, per così utilizzare l'esempio dell'astrologa che abbiamo avuto, in cui come erano sei pianeti entrano in Capricorno, un mese molto difficile, mettiamola così, buttiamola sull'astrologia che forse oggi va meglio così. 349-238-6666 per sms e whatsapp. Allora, il primo tema, le ripercussioni sui mercati dopo l'aumentare continuo delle tensioni in Iran e in Iraq, dopo chiaramente il blitz di venerdì notte dove è stato ucciso il generale iraniano Qasem Soleimani. Oggi si è tenuto un funerale con decine di migliaia di persone, le immagini sono impressionanti, a Teheran. E come alcuni di voi sanno, l'Iran nel frattempo ha deciso di procedere con un nuovo passo nel ridurre le restrizioni sul suo programma nucleare, oltre che essere uscita, ha annunciato l'uscita dall'accordo, togliendo ogni limite al numero delle centrifughe in attività. Ha detto che la Repubblica Islamica ha detto che assicurerà che continuerà a permettere l'accesso ai propri siti agli ispettori dell'Agenzia Internazionale, e poi il Parlamento iracheno, che nella parte, diciamo, più vicina all'Iran, la parte sciita, comunque ha votato ieri la richiesta di far uscire, di cacciare per meglio dire, gli americani dall'Iraq. Per quello che riguarda invece le dichiarazioni di oggi, ve le do in rapida sequenza. Allora, l'amministrazione Trump avrebbe cercato di fermare il voto del Parlamento iracheno, ma no, chiaramente non vi è riuscita, perché cercando di convincere i parlamentari iracheni che un ritiro degli Stati Uniti sarebbe catastrofico proprio per l'Iraq. E Trump continua, ha minacciato non solo grandi sanzioni all'Iraq, ma ha detto: se l'Iraq ci caccia vogliamo i soldi spesi per la base militare statunitense. E ha anche rilanciato la minaccia di colpire anche i siti culturali iraniani in caso di rappresaglia di Teheran. Allora è consentito uccidere, torturare e mutilare la nostra gente, ma non è consentito toccare i loro siti culturali, ha twittato Trump. Non funziona così. Oddio, uno potrebbe obiettare che se vuoi essere diverso da quelli che accusi di essere terroristi, non ti devi comportare. Io ricordo che la distruzione dei siti culturali, a me ricorda solo una cosa, i talebani in Afghanistan, quando distrussero i templi, e anche in Iraq, per cui insomma non mi sembra una gran linea per un paese democratico come gli Stati Uniti. Però Trump ha detto: se l'Iran attaccherà vi sarà una grave rappresaglia negli Stati Uniti. Soleimani, invece, il brigadiere generale Amir Ali Aishzaden, comandante dell'unità aerospaziale di Pasdaran, ha detto che neanche la morte di Trump vendicherebbe la morte di Soleimani. E poi il consigliere di Khamenei ha detto che per gli Stati Uniti sarà un altro Vietnam. Allora, poi c'è l'alto rappresentante dell'Unione Europea, Joseph Borrell, che è impegnato con i partner per trovare un modo per avviare una de-escalation, cioè l'opposto dell'escalation. L'Unione Europea ha deplorato la decisione dell'Iran di uscire dall'accordo sul nucleare. E ancora, anche il Premier Conte ha detto: la nostra attenzione deve essere concentrata a evitare un'ulteriore escalation che rischierebbe di superare il punto di non ritorno. Ma risulta chiaro a tutti che l'Europa, quantomeno, non dico che sia fuori dai giochi, ma ci va molto vicino. In questo momento tutta la disputa è tra Teheran e Washington, con il ruolo anche di Mosca. I mercati, l'oro corre ai massimi dal 2013, sale del 2,3%, a 1588, diciamo, dollari l'oncia. Il petrolio è andato col Brent sopra i 70 dollari, il palladio ha toccato un nuovo record storico. Allora vorrei andare innanzitutto con ordine e quindi ringrazio Annalisa Perteghella, ricercatrice dell'ISPI sul Medio Oriente e Nord Africa. Buonasera Perteghella. Buonasera a voi. Grazie anche a Moria Longo del Sole 24 Ore che ci aiuterà a capire che cosa stia succedendo sui mercati e anche sulle materie prime in primis. Moria, buonasera buon anno anche a te, così buon come anno. La dottoressa Perteghella. Allora, vorrei partire dall'analisi, cioè dicevo, abbiamo quasi raccolto il testimone con Musumeci, con il sul luogo lontano. La sua valutazione sugli sviluppi di oggi, Perteghella, per quello che riguarda i rapporti Teheran-Washington e anche il ruolo dell'Europa, che io ho definito, non dico di testimone, ma quasi, cioè di testimone con poca capacità di intervento. Prego. Sì, diciamo che oggi abbiamo visto queste folle oceaniche a Teheran che non si vedevano dai tempi del funerale di Khomeini, quindi il fondatore della Repubblica Islamica. E nessuno si aspettava, insomma, un simile effetto, una simile manifestazione di nazionalismo. Questo ci dice che si preparano tempi molto duri per i rapporti chiaramente con gli Stati Uniti, ma anche con l'Europa. Come ha detto lei giustamente, l'Europa in questo momento è un po' alla finestra, sta un po' a guardare. Ieri c'è stata questa dichiarazione dei tre, diciamo, i tre paesi, Francia, Germania e Regno Unito, quelli che sono nel negoziato sul nucleare con l'Iran, che hanno condannato chiaramente le ultime mosse sul nucleare iraniano, e la palla adesso, insomma, torna a essere un po' agli Stati Uniti, perché l'Iran ieri, comunicando appunto la decisione di non rispettare più i limiti e il numero delle centrifughe, si è anche detto pronto a tornare sui propri passi se gli Stati Uniti ritirano le sanzioni. Quindi bisogna un po' vedere se adesso ci sarà una nuova escalation, che però, più di così francamente, credo ci sia solamente lo scenario bellico, oppure se, diciamo, menti più salde prevarranno e si cercherà il modo di de-escalare, appunto, di ridurre la tensione, sì, e tornare al negoziato. A me sembra che però qui ci sia anche il tema dell'opinione pubblica interna. Molti hanno detto Trump ha fatto questa mossa perché va verso elezioni e vuole in qualche modo distogliere l'attenzione, ha cambiato quasi approccio. Ricordiamoci che Trump, quando fu in campagna elettorale, poi fu eletto, disse: noi dobbiamo disimpegnarci, la dico male, ma per farci capire, da Siria, dall'Iraq, cioè contestò la posizione di Barack Obama, quindi dobbiamo smobilitare e pensare agli interessi americani e all'America in primis, non a quello, non a esportare la democrazia in paesi distanti. E la mossa invece dell'uccisione di Soleimani è sembrata andare in direzione, anzi va in direzione diametralmente opposta. Però c'è anche il fronte dell'opinione pubblica interna iraniana, e quindi, come lei citava, le foto di oggi, i video di oggi, di una folla oceanica, chilometrica, che accompagna, diciamo, i funerali di Soleimani, fanno pensare che l'Iran non potrà semplicemente limitarsi a dire io mi auguro di sì, ma sono molto scettico ad avviare un'azione politica e diplomatica. Quindi la prima domanda è per lei, è se forse l'amministrazione Trump ha sottovalutato così la reazione iraniana. È ovvio che vi sarebbe stata una reazione, ma un conto è una reazione diplomatica, dura, di minaccia, un conto è vedere un paese che sta celebrando un eroe. Forse ha sottovalutato il peso di Soleimani, che veniva dato anche come successore dell'attuale presidente in Iran. Sicuramente c'è stato un gravissimo errore di calcolo, o meglio una mancata considerazione delle conseguenze. Il Pentagono, che ha sottoposto a Trump tra le opzioni possibili come rappresaglia per l'assalto all'ambasciata statunitense a Baghdad, quella dell'uccisione di Soleimani, diciamo che non ha presentato probabilmente anche le conseguenze. E paradossalmente l'effetto è che adesso Trump, comunque gli Stati Uniti, dovranno in qualche modo ridurre chiaramente la loro presenza nella regione, un po' lo stanno già facendo, perché l'Iran ha dichiarato guerra. E appunto, a proposito della risposta iraniana, chiaramente dovrà esserci una risposta, perché si tratta di una figura troppo importante per rimanere non vendicata, quindi c'è anche una questione di salvare la faccia internamente per il regime di fronte alla propria popolazione. nazione. Però non credo ci saranno atti eccessivamente eclatanti, perché l'Iran comunque è un attore estremamente razionale, gioca una partita sul lungo periodo, è consapevole che stante appunto la imprevedibilità e la, diciamo, mancanza di apparente razionalità nella Casa Bianca in questo momento, potrebbe qualsiasi azione eccessiva potrebbe ripercuotere il riscontro. Per cui credo che rimarrà questa situazione di instabilità strisciante. L'Iran, l'ha detto chiaramente, mira a cacciare gli Stati Uniti dall'Iraq, dall'intero Medio Oriente, nella migliore delle ipotesi, però si accontenterebbe anche dell'Iraq. Per cui credo che rimarremo in questa fase di instabilità prolungata ancora per molto tempo. Sì, molti hanno fatto anche notare che Soleimani in realtà era stato avvicinato dal mondo occidentale per il suo ruolo, per il ruolo che l'Iran ha avuto nel combattere da un lato Al-Qaeda e dall'altro l'ISIS o Daesh, perché lì sono sunniti, gli iraniani sono sciiti, e hanno dato, tra virgolette, una mano anche nella lotta contro Al-Qaeda e l'ISIS. Questo complica ulteriormente poi la capacità di comprensione di quello che sta avvenendo. Senta, dottoressa, un'ultima domanda. La posizione europea, dunque, qualcuno contesta il gravissimo errore di calcolo, è un giudizio personale. Certo che è un giudizio personale della dottoressa. Io ho fatto una domanda e questa è la risposta. Lei può pensare che invece tutto è stato calcolato. L'appoggio per i media europei, dei media europei che danno all'Ayatollah, è sempre vergognoso. Io appoggio l'Ayatollah, non l'ho mai dato, per cui non so a cosa si riferisca. Poi che vi siano dei media europei più morbidi nei confronti dell'Iran, la invito a non semplificare, perché, ripeto, gli sciiti sono stati anche i principali nemici del fondamentalismo islamico a marchio Al-Qaeda e ISIS. A mia memoria ricordo decine di attentati dell'ISIS e di Al-Qaeda in Europa, non ricordo attentati di matrice sciita. Quindi metta un attimo le caselle in ordine, perché se io devo pensare ai fatti e che cosa ha creato morti, attentati, tensioni in Europa, sono sempre stati terroristi islamici sunniti appartenenti, diciamo, a vario titolo alla galassia del terrorismo sunnita, quindi prima Al-Qaeda e poi chi voleva rifondare lo Stato islamico, il califfato, Daesh o ISIS, che dir si voglia. Non ricordo attentati iraniani in Europa, poi se vengo smentito chiederò a Venia. Le volevo chiedere un'ultima cosa, dottoressa Pertegella. La posizione europea, io ho detto che in questo momento stiamo facendo gli spettatori, i testimoni, così qualche appello, abbiamo visto i tre paesi che fanno parte dell'accordo con l'Iran, Germania, Francia e Gran Bretagna, chiedere, definire un errore, chiedere all'Iran di risiedersi al tavolo. Potrebbe essere in realtà una scelta, voglio dire, e questo vale anche per l'Italia, che ha avuto una posizione, lasciamo stare, non voglio buttarla in politica interna oggi, ossia avere una posizione molto defilata, molto morbida, per poi non essere coinvolta in questo scontro tra Iran e Stati Uniti. Quindi in realtà una posizione, se mi passa il termine, quasi democristiana, stare fermi quando tutto si muove e tutto è incasinato fuori? Ma questa potrebbe essere una lettura. Io credo che molto più semplicemente l'Europa non abbia strumenti al proprio, diciamo, nel proprio fodero da utilizzare, perché in questi mesi, insomma, ha provato con grandi dichiarazioni a tenere in vita questo accordo, però poi di fatto ha dovuto adeguarsi alle sanzioni americane, quindi da qui l'accusa iraniana all'Europa di non aver adempiuto all'accordo. C'è una grandissima disillusione in Iran in questo momento nei confronti dell'Europa. Stamattina delle immagini che arrivavano da Teheran, c'erano chiaramente le fotografie di Trump, le fotografie di Netanyahu e di Mirino, però c'erano anche le fotografie di Macron e di Angela Merkel. Questo testimonia il fatto che l'Europa ha un po' perso l'Iran. Adesso, come, insomma, l'Iran è un argomento che polarizza sempre, come credo testimonino i messaggi che sono arrivati in trasmissione, però diciamo che negli ultimi, dal 2016, insomma, dalla firma dell'accordo, si era un po' trovato un modus vivendi per parlare con Teheran. C'era un dialogo in corso tra Unione Europea e Iran che era veramente dal cambiamento climatico all'economia, ai diritti umani, quindi qualche passo in avanti si stava facendo. Adesso, diciamo, ne abbiamo fatti 20 indietro, per usare un'immagine. È tutto veramente Estrema evoluzione. No, non voglio cominciare l'anno con scenari foschi, però insomma, non è un bel momento. Ci abbia già pensato qualcun altro, dico, però lei dice più che una scelta, un obbligo la posizione europea di così diciamo, attendista e prudente, criticata anche dall'amministrazione americana che ha detto guardate che noi abbiamo fatto il lavoro anche per voi. Dunque, qualcuno mi dice, ma guardi che in Iran c'è un regime degli Ayatollah che ha creato profughi per sé. Io non ho mai difeso il regime degli Ayatollah, ma adesso va ben tutto, ma immaginare che il sottoscritto possa avere amore o guardare con compiacenza a un regime religioso, roba che qua per fortuna non esiste più da 2-3 secoli, anche, ecco, forse lei non ha mai ascoltato il programma. Okay. Altra cosa è fare un ragionamento sulla situazione in cui io non ho mai detto che l'Iran sia una democrazia, non è una democrazia in senso stretto per me, avete visto come sono state represse le proteste un anno fa, però ragionare di geopolitica non significa fare le belle damerine, significa capire qual è la conseguenza che può portare questo. Tra l'altro altri mi fanno notare che le milizie sciite iraniane sono quelle che hanno fermato l'ISIS e Daesh alle porte di Baghdad durante la prima fase dell'invasione. È vero, ecco perché la situazione è più complicata. Non vorrei mai che adesso tutta l'attenzione fosse sull'Iran e riparte l'ISIS, okay? Che rischia di avere un nemico in meno. Tra le due, io non devo fare la classifica tra meglio Iran o meglio l'ISIS, stiamo scherzando. Dico semplicemente che l'attacco all'Occidente, inteso come attacco all'Europa, se devo pensare da europeo, l'ha sempre portato il fondamentalismo islamico di matrice sunnita, non sciita, non iraniano. Oh. E poi non è che mi stia chiamando attentati sciiti, dico solo che attenzione, io devo vedere il pericolo dal punto di vista europeo. Comunque, grazie a Annalisa Perteghella dell'ISPI, andiamo sul meteo pubblicità, poi con Moria Longo e poi avremo anche Gregorio Leggi e Roberto Mannati per la parte sempre da un lato di mercati, dall'altro di cosa capiterà al traffico aereo, che è un cotè, è una cosa non importantissima, però delicata, visto che sopra l'Iran volano tantissime rotte intercontinentali. 349-238-6666 per SMS e WhatsApp. Focus Economia. minuti. Allora, Moria Longo, la reazione dei mercati, adesso poi arriveremo anche con Mannati, anzi chiamerei anche in collegamento, è già in collegamento Roberto Mannati che è gestore fondi partner di Ten Sigma e si occupa proprio di gestione del rischio. Buonasera anche a lei Mannati. Sì, grazie per l'invito, buonasera. Allora, sistemiamo un attimo l'audio di Mannati. Moria, come si sono mossi i mercati? Perché insomma tutto è avvenuto venerdì, poi non c'era l'Epifania per carità, ma i mercati sono aperti oggi, anche uno dei motivi per cui siamo in diretta, alla luce delle tensioni e soprattutto di quello che potrebbe capitare. Per ora quello che ho visto io è soprattutto un po' di tensione anche significativa sulle materie prime, non su rendimenti, titoli di Stato e tutto ciò che va a misurare il rischio. Sì, esattamente. Diciamo che i mercati sia nella giornata di venerdì sia nella giornata di oggi hanno avuto la tipica reazione di un evento negativo imprevisto, un evento geopolitico imprevisto, era totalmente imprevisto ovviamente. Le borse sono scese, l'oro che è un bene rifugio è salito ai massimi da 7 anni, lo dicevi tu prima, il petrolio è salito perché ovviamente quella è l'area del mondo da quale proviene buona parte del petrolio e quindi c'è stata la classica reazione fuga dal rischio andare verso i beni rifugio. Diciamo un classico. Però se si guardano le variazioni non è che ci sia stato panico o situazioni veramente esplosive sui mercati. Le borse sono scese sia venerdì sia oggi, ma con ribassi stamattina era un po' peggio, poi si sono riprese, ma nulla di eclatante. Questo perché? Perché i mercati, io ho sentito vari operatori in questi giorni nonostante la festività, un po' tutti sono convinti che questa sia per ora un evento certo imprevisto, ma comunque ancora non c'è né una guerra né qualcosa di veramente disastroso. Gli investitori sono convinti, gli investitori solitamente faticano un po' a prevedere gli eventi geopolitici, sono più a loro agio con i numeri che con la politica. Però comunque ritengono che l'attentato, l'uccisione del generale Soleimani sia stato un episodio. Anche eventuali rappresaglie iraniane o contrarappresaglie statunitensi resteranno comunque episodi. Quindi al netto di qualcosa di ancora imprevedibile, un'escalation vera, una guerra vera, ma che ancora non è assolutamente all'orizzonte, i mercati sono convinti che la situazione sarà abbastanza gestibile dal punto di vista loro, degli investitori, non dal punto di vista geopolitico. Per di più sono anche convinti che qualunque cosa accada di negativo dal punto di vista geopolitico, le banche centrali siano pronte ad agire ulteriormente, quindi iniettare nuova liquidità per calmare ulteriormente i mercati. Quindi addirittura la notizia negativa potrebbe quasi diventare positiva se le banche centrali tornano in campo. Tant'è vero che la Federal Reserve, se si guardano i future sulle manovre della Federal Reserve, sono aumentate in questi due giorni le probabilità di un taglio dei tassi quest'anno, entro fine anno, tra giugno e dicembre. Quindi il mercato è convinto che qualunque cosa accada, a meno che non accada veramente l'imponderabile, ma adesso non è all'orizzonte, comunque la situazione sarà gestibile. Per questo che le borse sono scese come era normale che succedesse, l'oro è salito come era normale che succedesse, ma niente panico. Allora vorrei sentire se anche Malnati condivide la tua analisi, in alcuni casi erano dati di fatto, nel senso, tra l'altro poi ti chiederò Moria se invece le borse non guardino ad altri elementi. Faccio un esempio, appena è uscito il dato pochi minuti fa sulla produzione di auto tedesche nel 2019, che si conferma a un crollo, di cui purtroppo anche in Italia abbiamo avuto le nostre conseguenze con tutta la parte che produce per l'automotive tedesca, in particolare in Lombardia, ma non solo, meno 9%, Volkswagen, BMW, Daimler hanno prodotto l'anno scorso 4.666.000 veicoli, è il numero più basso del 1996 come conseguenza della contrazione sui mercati internazionali. Lo dico perché è appena uscita la notizia. Però, Malnati, lei condivide l'analisi e le risposte che ha ottenuto Moria chiamando vari investitori, che per ora le dimensioni, passatemi il termine, restino ancora come conseguenze economiche al di là sulle materie prime regionali? In realtà non c'è nessun'altra alternativa a quello che sta accadendo. I mercati hanno deciso da tempo di seguire le banche centrali e lo vediamo sull'andamento dell'oro, cioè l'oro partito dal 2000, arrivato fino al 2012 in salita, con il grosso intervento 2011-2012 delle banche centrali, è partito con una lateralità approfondita che non è ancora riuscito a superare. Cioè noi arriviamo a 1.800 attorno al 2012 e siamo attorno a 1.500 adesso, 1.560. Sì, anche 1.590 comunque insomma sempre lì. Sì, siamo sempre lì, no? Quindi il problema è un altro. A mio parere, il problema è che con il passaggio agli ETF una parte importantissima degli investimenti si è irrigidita, cioè il 70% degli investimenti negli Stati Uniti sono in ETF, i fondi a gestione attiva che possono decidere: esco dalle borse, entro nelle commodity, entro nell'oro. Cioè in fondi che vanno a replicare l'indice, adesso lo dico male. Esattamente, ma i fondi che vanno a replicare l'indice, quindi o si sta sull'indice o si sta fuori. Ma questa alternativa, cioè pensare che si possa entrare nell'oro piuttosto che nel petrolio, è un po' da trader, se vogliamo, cioè non ha nessuna corrispondenza negli investimenti dei grossi operatori istituzionali. Allora, quindi, però, Malnati, che cosa potrebbe essere? Non voglio che tirarmela, insomma, gufarmela, però che cosa invece potrebbe modificare questo scenario nelle prossime settimane? Allora, questo scenario ha un grosso problema di fondo, che una parte importante degli investimenti è fatto in leva finanziaria e una serie di asset class, fra cui l'oro, si trovano in una situazione un po' particolare. Per esempio l'oro lo togliamo dalla terra da 2000 anni a questa parte e ogni anno ci aggiungiamo circa un 1% e un 1% se ne va perché si consuma. Quindi l'oro rimane lì, ma nel frattempo dal 2008 l'inflazione finanziaria, cioè quindi la creazione di denaro, è più che raddoppiata. Allora, le banche centrali hanno fatto di tutto per non lasciare che parta una corsa all'oro, così come avvenne negli anni dal 2000 fino al 2012, no? Quindi con un 250% e oltre di crescita, perché metterebbe a rischio l'idea che il sistema complessivo sia sotto controllo. E lo stesso accade con l'oil, cioè se noi guardiamo la crisi di settembre, quando hanno bombardato la più grossa raffineria negli Emirati Arabi, abbiamo avuto 10% di movimento che nel giro di 3 settimane è addirittura andato in negativo, cioè quindi e il punto è che il mercato che cosa fa? Compra future in questo momento, quindi c'è l'idea che ci sarà una crisi, una parte importante del mercato, per esempio le compagnie aeree che comprano, che devono avere la certezza del prezzo del carburante, si riempiono di future. Il problema è che quando l'evento non accade devono scaricarli e quindi il prezzo tende a scendere, cioè questo evento parossistico per cui il mercato finisce per comportarsi in maniera opposta a quello che noi riteniamo per effetto delle protezioni anticipate che vengono messe in essere dagli operatori reali, cioè da quelli che hanno la necessità davvero di comprare petrolio o di comprare oro, anche se l'oro ormai per le attività industriali è usato poco. Allora, Mario Longo, dopo il traffico, un'ultima domanda per te, perché quello che citava Malnati, guardate che ormai i mercati si sono allineati alle banche centrali, è come se, adesso speriamo che non vi sia nessuna ulteriore escalation in Medio Oriente, ma è come se diciamo tutto il resto c'entrasse poco. L'importante è sapere se le banche centrali continuano a tenere i tassi a zero e stampare moneta oppure no. Che poi vi siano scontri, certo che vanno a vedere le tensioni sui dazi tra Cina e anche Germania e Stati Uniti e le prospettive di economia mondiale, però la vera domanda è quella sulle banche centrali. Vorrei sapere se sei d'accordo, ma soprattutto questo pone un altro interrogativo sul 2020, adesso non voglio mettere troppa carne al fuoco, ma se i mercati sono tutti così dipendenti dalle banche centrali, quando le banche centrali dovessero iniziare a fare una leggera correzione, cioè alzare un po' i tassi di interesse, a partire dalla Federal Reserve, perché dicono, direbbero, attenzione, l'economia va bene negli Stati Uniti, la disoccupazione è minima, quindi possiamo iniziare ad alzare i tassi, non vorrei che questo rischiasse di generare poi una reazione spropositata da parte dei mercati stessi, se è l'unica variabile che vanno a guardare, se è l'unica cosa che ti interessa. Dopo il traffico, la risposta 349-238-6666, per SMS e WhatsApp. Focus Economia. Mario Longo. Sì, è quello che già avevo anticipato anche io, cioè il mercato è convinto, anche guardando i fatti dell'ultimo decennio, che qualunque cosa di negativo accada provochi un intervento delle banche centrali non più tanto a tagliare i tassi che ormai sono a zero, addirittura sotto zero, ma a iniettare nuova liquidità, che è un po' la droga, diciamo, che ha fatto crescere moltissimo i mercati in questi ultimi anni. Il problema qual è? È proprio questo, cioè che le politiche monetarie della banca centrale, i tassi a zero e la grande liquidità, hanno portato un grandissimo indebitamento soprattutto delle imprese. Ormai il debito delle imprese è ai massimi storici, non solo si va spiegato anche perché c'è tanta liquidità, ma soprattutto i tassi sono a zero, in alcuni casi sono negativi, e quindi alcune imprese possono ritenere molto più conveniente reperire soldi, chiedere prestiti, perché quando li hai a zero o in alcuni casi a livello reale, cioè al netto dell'inflazione, li hai negativi. È chiaro che ci guadagni, so che può sembrare paradossale, chiedi 1000 euro di prestito e ne devi ritornare 999. Non solo, negli Stati Uniti soprattutto, ma in piccola parte anche in Europa, ma in gran parte degli Stati Uniti, molte imprese in questi anni si sono indebitate e usano i soldi che hanno preso in prestito sui mercati a tassi molto bassi per comprare le proprie azioni in borsa, quindi facendo salire le azioni, il prezzo dell'azione. Buona parte del rally di Wall Street è dovuto alle azioni che le stesse aziende autoacquistano sui mercati, quindi diciamo è una situazione molto tirata. Il problema qual è? Che se l'economia dovesse rallentare e gli utili aziendali dovessero rallentare, ovviamente avendo imprese con molto debito e utili in calo, questo l'equilibrio piano piano si potrebbe anche rompere. C'era il Fondo Monetario che a ottobre ha fatto un report, il Financial Stability Report, mm-hmm. nel quale diceva che nei principali 8 paesi del mondo il 40% del debito delle imprese, se ci fosse una recessione che fosse anche solo la metà dell'ultima recessione del 2009, questo 40% delle imprese indebitate, il 40% del debito, e loro stanno parlando di 19 mila miliardi di dollari di debiti, sarebbero insostenibili. Cioè, tutte quelle imprese, il 40% delle imprese di questi 8 paesi avrebbe un debito che sarebbe superiore, cioè gli stessi interessi sarebbero superiori agli utili che queste imprese avrebbero se ci fosse una mezza recessione. Quindi diciamo che il mondo non può tollerare in questo momento né un passo indietro delle banche centrali, come dicevi tu, ma neanche una recessione, neanche un forte rallentamento dell'economia. Scatterebbe l'effetto a catena, cioè vendi di meno e a quel punto fatturi di meno, il titolo va giù, ma tu hai un indebitamento che è aumentato, i soldi li hai usati anche per comprarti in alcuni casi i titoli e tenerli su, e a quel punto crolla il castello di carte. Ecco, e qui arriviamo al punto finale, cioè qual è lo scenario negativo da questa crisi geopolitica? Lo scenario negativo potrebbe essere, attualmente non è uno scenario base, ma è lo scenario negativo, potrebbe essere che un eccessivo rialzo del prezzo del petrolio o una crisi geopolitica provochi una recessione, un forte rallentamento globale, economico, e questo poi avrebbe tutte le ripercussioni sul calo degli utili delle imprese, quindi il debito di molte imprese rischierebbe di diventare insostenibile. Anche la variabile politica, perché se Trump vuole arrivare, diciamo, in una campagna elettorale con il massimo delle munizioni a sua disposizione, non può permettersi un'America in cui le imprese iniziano a soffrire, e se tanto dovesse darmi tanto, cioè se dovessero restare alti i prezzi del petrolio, adesso ne parleremo, con conseguenze anche sul costo di beni e servizi, dovrebbe risolvere velocemente le tensioni con la Cina, perché se tanto mi dia tanto, a quel punto alleggerire le tensioni con la Cina e far ripartire i fatturati delle imprese che esportano verso la Cina e viceversa, permetterebbe forse di compensare l'elemento, diciamo, crescita del prezzo del petrolio. Malnati, visto che ho ancora un minuto, lei si aspetta che il prezzo del petrolio, adesso vedo una dichiarazione di Stoltenberg, il commissario della NATO, che dice, che chiarisce che sulla la decisione di assassinare il generale iraniano Qassem Soleimani è stata una decisione degli Stati Uniti, non della NATO. Però tutti gli alleati sono preoccupati per le attività destabilizzanti dell'Iran nella regione. Dicevo, $70 non è ancora drammatico, voglio dire, abbiamo vissuto con il petrolio che si avvicinava che era a 100 e sopra $100. Lei si attende che questa sia stata per ora, in assenza di notizie, la fiammata più grossa sul petrolio? No, secondo me ci saranno altre opportunità di salita ancora, ma non dimentichiamo che dal 2010 al 2014, sino a circa metà del 2014, il prezzo è stato attorno ai $100 e gli aerei hanno continuato a volare, l'economia ha continuato a girare. Quindi il mercato di per sé ha anche l'opportunità di rimettere il carbone che ha tolto al posto del petrolio usato per produrre elettricità. Quindi ci sono tante possibilità di intervenire inquinando di più per evitare che il prezzo vada oltre i 100, ma 100 non è che io me lo auguri questo, ma funziona. No, dico, non è che mi auguri adesso, io vorrei andare verso una riduzione lentamente dei fossili, ma non una reintroduzione del carbone. Però se ho ben capito, le dice attenzione, che siamo abituati a prezzi del petrolio ben più alti, non è che se da 70 andasse a 78, a 80 dovremmo iniziare a stracciarci le vesti, no? No, anche perché il problema vero potrebbe essere il ritorno dell'inflazione. Questa è la vera variabile che potrebbe distruggere le borse. Oh, cioè, adesso vediamo di far capire perché. Perché quando sale l'inflazione, le banche centrali, in automatico quasi, come si controlla la crescita dei prezzi al consumo? Si controlla aumentando il costo del denaro. E cioè, più alto, più ti costa prendere denaro, più costa il denaro anche prendere in prestito, meno tendi a spendere. Quindi se c'è un eccesso di inflazione, in questo caso sarebbe importata, non sarebbe inflazione da consumi interni, inflazione da materie prime, le banche centrali potrebbero essere tentate di alzare i tassi per raffreddare la corsa dei prezzi. Se però alzano i tassi, rischia di partire il meccanismo a cui faceva riferimento Moria Longo, ossia tutti i titoli. Guardate che le borse hanno corso tantissimo, abbiamo ricordato nelle puntate di fine anno tutti rialzi a doppia cifra, incluso Milano che è stata una delle migliori, e non perché l'economia sia andata a parte degli Stati Uniti così bene, proprio perché il denaro non costa, lo prendi in prestito, hai tantissimi prestiti, magari con parte di questi prestiti ti compri anche le azioni e le fai salire. Ecco, il giochetto, diciamo così, verrebbe interrotto se ci fosse un rialzo dei tassi di interesse. E quindi attenzione, perché uno spiraglio inflattivo e quindi un po' di inflazione dovuta ai prezzi delle materie prime potrebbe tentare le banche centrali a far rialzare i tassi di interesse. Chiudiamola in bellezza, tra virgolette. Un ascoltatore mi fa notare che l'astrologa aveva detto, previsto tutto, visto che gennaio era un mese. Beh, spero che questi 5, quanti erano i pianeti? 5, poi ce n'erano 6 pianeti, non è mai successo dal 1531, 6 pianeti tutti quanti in Capricorno, e siamo solo agli inizi di gennaio. Ecco perché saluto Moria Longo, ringrazio Roberto Malnati, andiamo su GR24 e poi invece, ripeto, il tema che riguarda il traffico aereo e il costo, anche in questo caso leggermente inflattivo, per le compagnie aeree. Poi passiamo alle scelte dei nostri ragazzi o ragazzini quando devono andare nelle scuole superiori. Allora, com'è là fuori? 10 gradi sotto zero e una terribile bufera. Neve e ghiaccio dappertutto. Tempo perfetto. Ok, GLC, questo è il nostro momento. Sfida l'inverno con la trazione integrale 4MATIC del nuovo GLC. Oggi hai 4.000 euro di ecoincentivo Mercedes-Benz su tutta la gamma GLC. Se permuti la tua auto da Euro 0 a Euro 5. E con MyDrive Pass scegli la soluzione finanziaria più adatta alle tue esigenze. Scopri di più su mercedesbenz.it. Divisionismo, la rivoluzione della luce. Dal 23 novembre al Castello di Novara, riuniti per la prima volta in una grande mostra, 70 capolavori di Segantini, Pellizza da Volpedo, Previati, Morbelli, Fornara, Longoni, raccontano la storia della prima avanguardia italiana di fine Ottocento. Divisionismo, la rivoluzione della luce. Dal 23 novembre al Castello di Novara. Mostradivisionismo.com. Doc 12 Melos, Doc Urban Melos, Doc Eco 3. Tre nuovi monopattini elettrici, tre soluzioni green per vivere la tua città su nilox.com. Dal 17 al 22 gennaio, appuntamento con Vicenza Oro, vetrina delle eccellenze italiane e internazionali del comparto orafo e gioielliero, organizzata da Italian Exhibition Group, e con VO Vintage, in mostra per la prima volta il vintage di altissima gamma di orologi e gioielli, con la possibilità per collezionisti e appassionati di vendere o acquistare pezzi unici e rari. Radio 24 sarà presente a Vicenza Oro con dirette e appuntamenti speciali. Tutte le info su radio24.it. Focus Economia. E 8 minuti di nuovo in diretta con Sebastiano Berisoni. Chiudiamo questa lunga ma dovuta e doverosa pagina sulle conseguenze anche geoeconomiche dello scontro durissimo tra Teheran e Washington, con un aspetto, dicevo, che non è preminente, che riguarda in parte anche il rialzo del prezzo del petrolio. Però io sono d'accordo sia con Moria Longo che con dottor Malnati, attenzione, perché il rialzo c'è stato, è il livello più alto da un po' di mesi, ma attenzione, siamo a $70 al barile sul Brent e a 64 sul WTI. L'oro invece è ai livelli più alti da 2013. Dicevo, una conseguenza potrebbe esservi anche sul mondo delle compagniere. Perché? Perché da un lato usano il cherosene, e quindi che è il principale combustibile usato dagli aerei ed è una delle principali voci di costo per le compagnie aeree. Ma tra l'altro vi potrebbe essere anche un impatto sul cambio di rotte, con un impatto ancora più forte sulle grandi compagnie aeree dei piccoli paesi, dei piccoli emirati del Golfo. Mi riferisco a Qatar, Airways, Etihad e Emirates. Ma anche, faccio notare, così come parallelismo, che Cathay Pacific ha molto sofferto per gli scontri e i disordini locali a Hong Kong, era compagnia di bandiera di Hong Kong. Allora chiedo appunto da questo punto, su questo aspetto, al professor Gregory Aleggi, che è esperto della rivista AirPress. Buonasera Aleggi, buon anno anche a lei. Buonasera, buon anno. Se siano dei rischi eventuali o dei rischi molto concreti? Ma quello dell'aumento del costo del combustibile è estremamente concreto. L'instabilità regionale è altrettanto concreto, forse diciamo in maniera meno percepibile, perché si pensa il problema è in Iran, i problemi li avrà l'Iran, che peraltro ha già difficoltà diciamo nei collegamenti aerei. Mm-hmm. La realtà però è che l'area del Golfo non è una destinazione terminale, è diciamo in realtà ricca di hub in cui arrivano persone destinate altrove per cambiare aereo. Quindi l'instabilità potrebbe, un po' come è successo a Hong Kong, appunto danneggiare il trasporto aereo in quella regione, e questo avrebbe, se dovesse durare, delle ripercussioni globali, anche perché quelle compagnie sono tra i migliori clienti dei grandi costruttori, cioè comprano un sacco di aerei per alimentare queste prospettive di traffico. Quindi se diminuisce riducono gli ordini e diciamo torna a colpire anche il lato industriale, non solo il servizio di trasporto. Senta, ma per farci capire, lei dice che il pericolo più grosso è per gli hub, e quindi Doha, Dubai e Abu Dhabi principalmente, cioè di tutti gli smistamenti, lo dico male ma per farmi capire, che vengono fatti in questi aeroporti sia da est verso ovest, quindi dall'Australia, dall'Asia, verso l'Europa, che viceversa, oppure per le compagnie che sorvolano lo spazio aereo iraniano e iracheno andando verso l'Asia o quello dall'Asia l'altro, verso l'Europa? Quello diciamo del cambiamento di rotta impatta sui costi, perché allunga i voli, diciamo non permette di utilizzare le tracce ottimali, soprattutto dopo il caso dell'abbattimento del Malaysian qualche anno fa sull'Ucraina, stiamo tutti più attenti, siamo più conservativi nel non volare in zone cioè anche potenzialmente di rischio, però non colpisce la domanda di trasporto, non influenza la scelta. Alla fine se ho una rotta diretta ed è un po' più lunga, costa appena di più, ma c'è bisogno di andare in un posto, io prendo lo stesso volo di prima. Se invece ho delle alternative, una che cambia in una zona instabile e una che o va direttamente con un'altra rotta o cambia in un posto che ritengo più sicuro, quello può avere un impatto, come dire, universale. Quindi molto più sugli aeroporti, sugli hub, sullo smistamento che non sulla rotta in sé. Sì, perché un'instabilità regionale diciamo rende pericolosa la zona, e l'esempio che faceva lei prima di Cathay Pacific e Hong Kong è tipico. Hong Kong ha del traffico di destinazione, ma relativamente modesto numericamente, però è un grande snodo del traffico diciamo di tutta l'Asia e del Pacifico. Ecco, per concludere, con l'instabilità ha sofferto molto in termini numerici. E per concludere, lei non mi ha citato, forse ho colto male io, l'aspetto del prezzo del petrolio, fermo restando che siamo ancora a 64 col WTI, a 70 col Brent, cioè non a livelli altissimi, quell'impatto invece? Il prezzo del petrolio è un costo diciamo critico per le compagniere. La grande preoccupazione è sulla volatilità del prezzo, cioè ormai tutte le compagnie fanno, anche con strumenti abbastanza sofisticati, hedging, quindi scommettono, comprano a tempo differito, a prezzi studiati, proprio per tutelarsi dagli sbalzi. Questo ha un senso finché gli sbalzi, i cambiamenti sono su tempi abbastanza lunghi, ma degli shock improvvisi rischiano di far saltare queste programmazioni e quindi scaricare dei costi inattesi sui quali si ha difficoltà di intervenire per controllare poi i prezzi. Allora, grazie, ci interessava anche questo aspetto, più in in prospettiva, chiaramente, nella speranza che, allora la speranza deve avere anche un minimo di razionalità, allora sperare che in questo momento la tensione si abbassi è praticamente impossibile. Diciamo nella speranza che non si alzi, che non aumenti la tensione e che a un certo momento si cerchi anche di ritrovare un dialogo, ripeto, in questo momento non sembra assolutamente possibile. A chi mi scrive in senso contrario, beh, invito a guardare le immagini del funerale di Soleimani e degli altri a Teheran oggi per capire qual è la situazione in Iran. Vedo che molti scrivono ancora sulla domanda iniziale che avevo fatto alla dottoressa Pertegella, se forse non vi sia stata una sottovalutazione da parte americana della reazione che vi sarebbe stata, del ruolo di Soleimani nell'opinione pubblica iraniana, del fatto che venisse dato da molti come successore dell'attuale presidente. Alcuni sono dell'idea che invece no, Trump sapesse esattamente quello che stava facendo, nessuno può avere la verità rivelata. Io spero quantomeno che fosse così. Ho visto una presa, l'abbiamo data prima in diretta e poi l'hanno ricordata anche i nostri GR24, una tra virgolette presa di distanza della NATO, perché Stoltenberg ha detto la decisione è stata di Washington, non è stata americana, da quello che abbiamo letto in questi giorni, tra l'altro nemmeno così condivisa con nessuno. Ecco, spero che tutto questo sia stato ampiamente valutato dalla Casa Bianca. L'esperienza passata, mi riferisco soprattutto alla guerra in Iraq di Bush figlio e anche ad alcuni atteggiamenti di Obama nei confronti della Siria, delle primavere arabe, ahimè non depone a favore, depone in senso contrario, c'è una sottovalutazione o ignoranza nel senso stretto del termine della reale situazione da parte degli Stati Uniti, sia nei confronti dell'Iraq con le finte armi nucleari e in realtà il vero caos che si è generato nella regione. Non dimentichiamoci che l'ISIS o Daesh nasce proprio in Iraq e vale anche appunto per altre considerazioni fatte sulle primavere arabe e su un eccesso di entusiasmo nell'abbracciarle. La situazione mi sembra che sia tutt'altro che risolta in Siria e comunque nel Medio Oriente. Spero che vi sia stato un calcolo preciso da parte della Casa Bianca sui costi-benefici, perché costi li avrai sicuramente, ma rispetto ai benefici nell'attentato, nell'assassinio di Soleimani. Grazie anche a Gregory Aleggio, andiamo sul traffico. Focus Economia. Andiamo rapidamente sulle borse, perché nonostante l'epifania in Italia, oggi le borse sono tutte aperte, hanno un po' recuperato rispetto ai cali iniziali. Flavia Carletti, Radio Corriere Sole 24 Ore, buon anno anche a te. Buonasera, buon anno a tutti. Meno 0,50% la chiusura di Milano, meno 0,70% Francoforte, meno 0,50% anche Parigi, meno 0,60% Londra, Dow Jones, meno 0,25%. Bene, Eni, immagino, grazie al rialzo del prezzo del petrolio più 1,50%. Leonardo è l'ex Finmeccanica, quindi lavora anche nel settore difesa, aerospazio e difesa, più 2,80%. Immagino che anche qui le tensioni medio orientali abbiano giocato tra virgolette a favore di Leonardo. E invece Nexi meno 3,90%, e poi una pattuglia di bancari: Banco BPM meno 2,30, B per meno 2, Unicredit meno 1,80%, c'è anche Stima Electronics che perde il 2,30%. A te il commento complessivo. Sì, appunto, oggi le borse erano già partite male perché continuano a pesare queste tensioni internazionali, però poi sul finale c'è stato questo recupero che è andato un po' di pari passo col rallentamento del rally del petrolio, perché il petrolio appunto il Brent era arrivato a superare i $70, invece poi in chiusura dei mercati europei si era riassestato sul livello dei 69, e anche il WTI ha frenato e adesso sale per esempio a New York dello 0,13%, quindi in qualche modo questo rallentamento del petrolio poi ha avuto un riflesso sui mercati. E c'è stato anche un parziale recupero per esempio dell'euro nei confronti delle principali valute, sul finale ha recuperato sia sul dollaro che sullo yen, mentre invece nei giorni scorsi abbiamo visto un forte rafforzamento dello yen, perché appunto quando ci sono crisi internazionali si va su quelle che sono le valute rifugio, lo yen è quella che è considerata per eccellenza la moneta diciamo più sicura, e quindi invece oggi c'è stato un po' un come se l'avversione al rischio si sia leggermente distesa, anche se comunque le tensioni rimangono e la questione iraniana rimane diciamo il focus principale su tutti i mercati. Allora, a proposito di tensione, faccio notare che adesso il portavoce di Haftar, qui parliamo della Libia, ha dichiarato che le forze pro Haftar, quindi quelle contro Sarraj, hanno preso il controllo di Sirte, e questa è un'altra È un'altra area geografica dove si stanno scontrando. Sembra di essere tornati al grande gioco, al big game di fine 800, dove hai Russia da una parte, Turchia dall'altra, l'Europa che non riesce a far sentire la sua voce, gli Stati Uniti che non si capisce se abbiano un interesse o no nella parte libica. Comunque, chiudo sulla Libia, ringrazio Flavia Carletti e passo a un altro tema, non più leggero, ma sicuramente non così preoccupante. Domani aprono, come dicevamo, le iscrizioni scolastiche online, si chiuderanno il 31, per chi vuole appunto iscriversi alla scuola, per chi deve non vuole, iscriversi alla scuola superiore. E Radio 24, in collaborazione con scuola.net, ha svolto un sondaggio. Allora, sul sito di Radio 24, ripeto, c'è la puntata speciale di Verso Futuro e Oltre, curata dalla nostra Maria Piera Ceci, che si può ascoltare, è tutta dedicata alla scelta delle superiori. Poi sul quotidiano se ne è parlato, ma sul sito del Sole 24 Ore si può scaricare anche l'ebook gratuitamente con la guida 2020 alle scuole superiori. Però il sondaggio è un sondaggio dove 9 ragazzi su 10 hanno ricordato di aver partecipato ad attività di orientamento. La cosa che a me ha lasciato un po' così, visto che il sondaggio è relativo a 13-14 anni, è che il 52% dei 13 anni ha paura di non trovare lavoro, inizia presto, e il 63% ha messo in conto la possibilità di lavorare o studiare all'estero dopo il diploma. Daniele Grassucci, cofondatore di scuola.net, buonasera e buon anno anche a lei. Buonasera, bentrovati e buon anno. Dunque, veniamo poi al sondaggio. 2 studenti su 3 propendono per i licei, dove al sud, specialmente al sud e tra le ragazze, si arriva al 70%. Massimo rispetto, io ho sempre invitato anche all'interno della libertà della scelta a valutare anche altri orientamenti, visto che il mismatching arriva, cioè la mancata incontro tra domanda e offerta in questo paese, arriva soprattutto per tutte le figure professionali di carattere tecnico, che non vuol dire che tu debba fare il tuo tecnico, ho detto solo che poi la richiesta è alta: periti, fresatori, saldatori, periti informatici, responsabili dell'IT, sono queste le figure più richieste. Comunque l'alternativa ai licei sono gli istituti tecnici, il 21% lo vede come un possibile sbocco, tra i maschi si arriva al 28%, meno di 1 su 10 invece opta per gli istituti professionali, 9%, il 5% per un corso di formazione professionale. Tra i licei lo scientifico è al secondo posto, al primo posto con il 46% delle preferenze, il classico al secondo posto, molto gettonato al sud. Allora, Grassucci, un primo commento su questi dati, anche su quanti sono indecisi, poi vorrei capire che cosa hanno detto i ragazzi invece dell'alternanza scuola-lavoro, perché questo è un tema che a me sta molto a cuore. Il precedente governo giallo-verde puntava quasi a eliminarla, poi insomma ha ridotto alla metà la possibilità. Noi abbiamo sempre detto che è vero che vi sono stati dei casi di sfruttamento, di cattivo utilizzo dell'alternanza scuola-lavoro, però non butti via uno strumento solo perché qualcuno ne ha abusato, sennò dovremmo cancellare domani il reddito di cittadinanza con tutti i casi che abbiamo di finti redditi di cittadinanza, di gente che poi lavora. E dall'altro, attenzione, perché la critica, ma gli facevano fare le fotocopie, è una critica che non accetto. Qualunque stagista all'inizio guarda, osserva e magari fa le fotocopie, per dirle nel linguaggio, non è che ne metti a fare che cosa, sei lì per capire le dinamiche interne. Quindi commento sui dati e invece anche il giudizio su alternanza scuola-lavoro. I dati ci confermano una tendenza che si è stabilita purtroppo da anni, ovvero che i licei sono l'indirizzo più gettonato lo scorso anno. Perché 50... purtroppo? Beh, dal mio punto di vista confermo, ecco, quella che è anche la sua opinione. Oggi ci sono tantissime professioni che vengono richieste al mercato del lavoro e che comunque si potrebbero raggiungere attraverso dei percorsi tecnici o professionali, e invece nel nostro paese c'è una certa idiosincrasia nei confronti delle professioni, magari dei mestieri che non siano, ecco, puramente intellettuali. E io temo che riguardi più che i giovani, i genitori dei giovani. Tra l'altro mi fa specie che nel nostro sud, dove la disoccupazione è altissima, si continui con un retaggio, secondo me, vabbè, più sociologico che altro, a preferire il classico, i licei per i 70, cioè abbiamo punte di disoccupazione, se sei giovane, abiti al sud e sei una ragazza, arrivi a punte di disoccupazione del 60%, ciononostante le ragazze del sud sono quelle che gettonano di più i licei al 70%. Comunque chiudo l'inciso e la lascio andare avanti. Beh, sì, è proprio questo il problema, che c'è una scarsa conoscenza di quelle che sono le richieste del mondo del lavoro, sia del mondo del lavoro nel breve e medio termine, ma anche in quello che sarà a lungo termine. Sappiamo insomma che metà dei mestieri che faremo da qui al 2030 debbono essere ancora inventati, per cui ecco, non ci possono essere scuole che oggi professionalizzano per questo tipo di mestieri, però è altrettanto vero che per poter essere pronti a questo tipo di mestieri bisognerà portare a casa tutta una serie di competenze trasversali, oltre che magari una buona formazione di base che ad esempio si può raggiungere con i licei. Però il classico stereotipo del liceo è che si studia e basta e che non c'è spazio per le esperienze extracurricolari. Al contrario, chi fa il liceo dovrebbe assolutamente completare il proprio curriculum con esperienze extracurricolari, dalle certificazioni linguistiche al coding, passando magari per la musica e per il teatro, perché sono appunto comunque delle esperienze che magari portano dentro competenze trasversali che poi saranno richieste dal mondo del lavoro. Quindi sì. Questo sicuramente è uno dei temi. Le famiglie non sanno cosa sta succedendo. Eh sì, e questa è colpa però anche delle famiglie, nel senso che non possiamo dare la colpa al tredicenne che non sa quello che succede. Mentre per quello che riguarda l'alternanza scuola-lavoro, al di là appunto di alcuni casi e delle mie personali valutazioni? Innanzitutto la metà dei ragazzi in uscita dalla terza media conosce l'alternanza scuola-lavoro, quindi sa di che cosa si tratta, e soprattutto valutano, una buona parte di loro valuta la scuola a cui iscriversi in base proprio alla qualità dei percorsi di alternanza. Circa il 70% vorrebbe altresì che le ore di alternanza fossero di più rispetto a quelle che sono le ore minime. Questo perché c'è una grossa richiesta di concretezza alla scuola, collegata anche al fatto, alla paura di non trovare lavoro. Ecco, una cosa che ha fatto specie anche a noi è vedere che la metà dei tredicenni che dovrebbero essere spensierati, pensare magari a giocare, alle prime relazioni eccetera, invece si preoccupano di non trovare lavoro e ritengono che il maggior problema sia legato alle opportunità offerte al nostro paese, per cui 2 su 3 pensano di dover completare il proprio percorso di studi o di andare a lavorare all'estero. Quindi ecco, secondo me c'è una generazione che ha una grossa paura di non riuscirsi a collocare. Come dargli torto? Abbiamo oltre 2 milioni di NEET, quindi loro vedono magari il fratello, il cugino o comunque sentono parlare e vedono che appunto i giovani non riescono a collocarsi nel mondo del lavoro, però d'altro canto non vengono dati loro gli strumenti per potersi collocare in maniera corretta, perché si continua a ragionare con i vecchi stereotipi, e questo ovviamente sì, guardi, io non voglio ripetermi, però io sono straconvinto che a ragionare con i vecchi stereotipi siano i genitori di questi ragazzi, perché secondo me un tredicenne che ha la consapevolezza per dire ho paura di non trovare lavoro, forse dovrò andare all'estero, se in casa continuano a dirti a me non me ne frega nulla di quello che mi scrivono alcuni ascoltatori, ah ma i figli dei ricchi, uno mi dice, i figli della Fornero non faranno i fresatori, i tornitori, ma scusate, ma uno ragiona sulla base di quelle che sono le sue possibilità, le sue capacità. Io non ho detto, non ho nulla contro il liceo, ho detto solo che mi fa un po' specie che non venga preso in considerazione dalle famiglie quello che raccontiamo. C'è un rapporto che le camere di commercio italiane pubblicano su base annuale, anzi forse 2 volte all'anno, si chiama Excelsior. Andate a guardarlo, andate a vedere le domande che arrivano dalle aziende. Poi uno può dire, a me non me ne frega niente, giustamente mio figlio ha una passione per il greco, per la storia, farà quello, benissimo, ma dirlo solo per motivi di carattere sociologico, perché fa figo, perché ti vergogni, è una follia quando in ballo c'è il futuro di tuo figlio. È una roba provinciale, una roba proprio da strapaese, da camminata lungo il corso al sabato pomeriggio a mostrare la pelliccia. Mo mi sono rotto, la saluto, Grassucci, domani ci risentiamo dalle 17 in poi. Intanto da Sebastiano Barisoni l'auguro di una buona serata.